fossi yo, viene lento divagar una música brutal, encendió nuestra pasión. Melog 2.0 di Gianluca Nicoletti. Immagino, e sono il primo a rendermene conto, che parlare di argomenti che non riguardino strettamente le tragedie che stanno avvenendo in terra di Afghanistan possa sembrare una mancanza di tatto. Ma questa mattina vorrei, se possibile, continuare comunque a trattare l'argomento che ci eravamo prefissati di fare ieri sera, un po' perché i colleghi della redazione seguiranno a tempo reale, come sempre ultimamente fanno, quelli che sono gli eventi luttuosi di cui abbiamo già avuto qualche anticipazione, ma noi vorremmo continuare invece a riflettere, pensare, non voglio dire assolverci dalla responsabilità di condividere lutto, dolore e apprensione, ma a trattare l'argomento che questa mattina volevamo trattare. Non per voglia o smania di leggerezza, ma semplicemente per dividere gli spazi della informazione con gli spazi anche della riflessione su altri temi. Il tema che volevo trattare questa mattina era un tema abbastanza delicato, volevo trattarlo con leggerezza se possibile. Era la percezione della donna perduta attraverso l'evoluzione del punto di vista comune che viene celebrato, certificato, congelato dal cinema. Sono parecchi mesi che assieme a Giuseppe Sansonna stiamo facendo questo esperimento che era nato in maniera del tutto casuale. Pensavamo di parlare soltanto di alcuni film italiani un po' dimenticati, poi siamo resi conto che in realtà il cinema che noi andavamo a vedere, che i nostri genitori guardavano, che i nostri nonni guardavano, era lui a guardare noi. Era il grande osservatorio sulla nostra percezione dell'esistenza, della nostra vita, del nostro modo d'essere, delle nostre percezioni, delle nostre sensazioni. Adesso, a posteriori, che noi possiamo rivedere pellicole che hanno fatto sì la storia del nostro cinema, molte altre sono state dimenticate, molte altre ancora sono passate e celebrate alla storia del cinema italiano, non tanto per ciò che noi sottolineiamo in queste puntate, magari per altre sequenze, ma andando a scavare, andando a osservare, andando con la pazienza certosina di un osservatore di cinema come Giuseppe Sansonna, abbiamo trovato imprigionati quasi dei brandelli profetici, dei congelamenti di stati, di modi d'essere che oggi, resumati, ritirati fuori, danno una grande sensazione e vanno a ricostruire delle caselle della nostra storia. Il tema che volevamo toccare questa mattina, per questo ho fatto questo lungo preambolo, perché potrebbe sembrare fortemente stridente con ciò che sta accadendo, ma in realtà lo è fino a un certo punto, è quello della donna perduta. La donna perduta, detta così, potrebbe avere un'infinità di significati. Se vi dico che ricordo con grande nostalgia e grande desiderio più le donne che ho perduto rispetto a quelle che via via ho trovato e mi sono rimaste accanto, probabilmente rischio di mettere in crisi fortemente anche i miei rapporti personali. Ma è normale che sia così, è abbastanza celebrato anche poeticamente. Ricordate la meravigliosa poesia di Gozzano sulla cocotte. Il bambino attraverso una cancellata vede la cocotte, lui è piccolo nel suo giardinetto, vede questa donna bella con una bocca rossa, tutta truccata, che lo avvicina e che gli fa dei complimenti, che si occupa e si dedica di lui, con affetto, con passione, con amore, con tenerezza. Il bambino viene ancora lontano dalle adolescenziali accalorimenti, va dalla mamma e racconta che ha visto questa donna. La mamma dice: ma sei pazzo, non devi più frequentarla, quella è una cocotte. E lui candidamente il giorno dopo va lì e dice: cara mia, non posso, signora mia, non posso più parlarle perché lei è una cocotte. La signora fa una risata, gli dà una carezza e scompare. Cresciuto, diventato grande, Gozzano si ricorda questa cosa. Questa frase che tutti i cultori delle frasi da Baci Perugina ricordano continuamente: amo le rose che non colsi, in realtà è soltanto forse il momento meno poetico di tutto lo struggimento di questo uomo cresciuto per questa cocotte. Sarà cresciuta, sarà invecchiata, cosa sarà diventata? Questa impressione così forte, così immediata, così carnale, così inspiegabile e assolutamente indicibile per un ragazzino gli segnerà tutta la vita questa sorta di nostalgia, di ricordo, che la donna perduta, la donna che la società detesta, la donna che in fondo si fa strumento passivo dell'egoismo di tanti maschi, in realtà probabilmente in alcuni lampi, in alcuni suoi momenti, in alcune sue fasi in cui gratuitamente, genuinamente, carnalmente riesce a essere oggetto di felicità per altri esseri umani, rappresenta qualcosa di indimenticabile. Ciao bello, con quella faccetta da collegiale all'anima che porco. E così abbiamo chiuso, eh? Sembrava che doveva succedere chissà che cosa l'ultima sera. E che volevi, Mortaretti come l'ultimo dell'anno? Non se ne è accorto nessuno. Se ne accorgono, vedrai. Sì, specialmente i militari. E tu che hai da guardare così? Io? E chi te guarda? No, tu guardi. Perché, non te si può guardare? E guarda questa, allora. Sai, oggi mi è capitato un giugiolone che non c'era mai stato. Poverino, è venuto per curiosità. Voleva vederne uno prima che li chiudessero. Senti, pensa alla rabbia di quelli che compiono 18 anni domani. Bella iella, no? Giuseppe Sansonna, buongiorno. Da cosa è tratta questa sequenza? Poi la commentiamo insieme. Buongiorno. Questa sequenza è tratta dal film A due le compagne di Pietrangeli, forse uno dei registi più sensibili della storia del cinema italiano, che in A due le compagne racconta la storia di queste quattro prostitute che all'indomani del 20 settembre del 58, dopo la legge Merlin e la chiusura delle case di tolleranza, si reinventano una vita, cercano di reinventarsi una vita, capeggiate da Adua, che è la strepitosa Simone Signoret, e quindi cercano di, attraverso un ristorante in cui andranno a lavorare, cercano di uscire. Pietrangeli nota come la figura femminile sia al centro del cambiamento di quegli anni, sia una figura che però è subordinata alla violenza, alla ferocia del maschile. In questo caso c'è il Claudio Gora, che è la cattiva coscienza dell'alta borghesia, in tantissimi film rappresenterà sempre qualcosa di feroce, di efferato, che prima è il commendatore, un ex cliente che gli concede la licenza, però poi le ricatterà e le costringerà a una vita infame, a ritornare a una vita infame. Dobbiamo fare una precisazione di tipo storico. La figura della donna perduta, in questo caso la donna perduta nel senso più classico della parola, la prostituta, cambia fortemente, viene rappresentata diversamente in questa grande linea di discrimine che tu hai detto, che è la legge Merlin in Italia. Da un certo punto in poi la tolleranza rispetto alla prostituzione legalizzata, assistita allo Stato e via dicendo, non poteva esistere più. E questa è stata una sfumata lunga. C'è anche un famoso film di Totò, Arrangiatevi. E Totò e la sua famiglia prende a un affitto stracciato quello che in realtà era un ex casino. Sì, sì, sì. E si rendono conto a un certo punto, gli davano pochi soldi perché lì c'era la casa di tolleranza. Sì. Tutti continueranno ad andare a bussare, ma in realtà Totò a un certo punto dice: arrangiatevi, non ci sono più. E c'era un senso tra la nostalgia di un mondo perduto, che probabilmente noi non abbiamo memoria perché eravamo troppo giovani, forse quando è stata la chiusura, hai detto 58. Nel 50 avevo 4 anni, figuriamoci, non potevo percepire il lutto che sarà respirato in famiglia in quel periodo, quindi non so esattamente cosa fosse. Però è un'immagine, diciamo, molto ipocrita, ancora un grosso retaggio dell'Italia fascista in cui la famiglia era sacra perché era il luogo della riproduzione, quindi tutto ciò che era carnalità, passione, desiderio si consumava in maniera prezzolata. C'è questa immagine certificata, secondo me ipocrita, finta, del casino come luogo romantico in cui c'è questo rapporto. In realtà erano delle schiave a tutti gli effetti. Però ci piace pensare, perlomeno la donna perduta negli anni 50 veniva comunque rappresentata in questa maniera. Sì, poi in questo caso c'è una Simone Signoret che mostra tutta l'energia del femminile, la voglia di cambiare. E si incrocerà invece con l'indolente Mastroianni, che rappresenta qui proprio la mollezza del maschile, l'impossibilità di aiutare questa donna a cambiare vita. Poi ci sono Emmanuelle Rivà, che invece ha un figlio, reduce da Hiroshima Mon Amour, che ha un figlio e con questa trattoria cercherà di tenerlo con sé. Sandra Milo, meravigliosamente svampita, e poi alla fine appunto loro sono costrette a tornare nella strada, costrette di nuovo alla disperazione. C'è questo finale meraviglioso con queste luci strepitose di Nannuzzi, direttore della fotografia, Simone Signoret sotto la pioggia battente con questo viso tremendo che è bellissimo, e dice: non ce la faccio più. Questo è toccante. Allora 800 24 00 24, vi dimostreremo questa mattina quanto è la figura della donna perduta, secondo varie accezioni, secondo varie sfumature, appunto dagli anni del dopoguerra fino agli anni nostri. Chi sono oggi le donne perdute? Non lo so, io ultimamente ho partecipato in altri contesti, non certo in un contesto di prostituzione, ma comunque in contesti di leggerezza ostentata, vari dibattiti in cui le ragazzine dei programmi più arditi e più spensierate alla televisione vengono additate come modelli negativi. Forse sono quelle oggi donne perdute. Il buonsenso comune indica le povere, svampite, veline, signorine, pupette della televisione come il modello più detestabile. O sono le persone che diventano, loro malgrado, protagoniste dirette di scandali legati ai politici, ai grandi dello spettacolo, ai grandi del mondo dell'imprenditoria. Chi sono oggi le donne perdute? Qual è la vostra percezione di donna perduta, a parte quelle che ognuno di voi ha perduto e forse non recupererà mai più? Vabbè, vabbè, ho capito. Quanto ti servirebbe? Tu lo sai che non ce l'ho i soldi. 200 secchi. E dove li trovo? Ma non lo sai che me li sono spesi tutti per la casa, quelli che c'avevo? Per la licenza, per il banco in piazza? Ah, ma te vado a giocare? Ma allora non m'hai capito. Ma che te lo insegna io come sei fare i media ai grani? Ma allora te lo sei scordato? Ancora non te sei saziato. E che sarà mai? Se ci metti un po' di buona fantasia, con una decina di giorni rimedi, non te pare, Ro? Anche qua c'è un'altra sfumatura, un'altra accezione, è il post-Merlin, in cui le donne perdute nella loro più estrema rappresentazione, cioè quelle che sono perdute perché si danno in cambio di denaro, non sono più regolamentate e sfruttate dallo Stato, quindi esistono una sorta di imprenditoria privata. E in una lettura molto pasoliniana di questo fenomeno, la suburbia romana, la città che cresce, la periferia che comincia a costituirsi, ha come suo humus costitutivo, come sua attività preferenziale, proprio quella dello sfruttamento della prostituzione. Il rapporto fra pappone e prostituta, come questo di Mamma Roma, è sempre un rapporto ambiguo. C'è una sorta di materna tenerezza verso la persona che lo sfrutta. Mamma Roma è mamma di chiunque, non soltanto del suo disgraziato figlio, ma anche di chi la sfrutta. E il film appunto è Mamma Roma di Pasolini del 62, e qui c'è questo Vivaldi che avvolge questo dialogo fra Citti, appunto il pappone, e Mamma Roma, la Magnani. Morto un pappone se ne fa un altro, è la frase con cui inizia il film, appunto perché la Magnani si sottrae col matrimonio di Citti con un'altra donna, si sottrae a questo capestro, però tornerà inevitabilmente un destino ineluttabile, quello di, nonostante il tentativo di riscatto per il Colo Borghese, la voglia di aprirsi un banco di frutta a Campo dei Fiori e allevare il figlio Ettore Garofalo, lo straordinario balletto che c'è con sul violino Zigano era un frammento dell'infanzia di Pasolini, quando loro ballano insieme Ettore Garofalo e la Magnani, è proprio un ricordo dell'infanzia di Pasolini che ballava questa danza con sua madre, e quindi la voglia anche di mantenere questo figlio, di farlo uscire, ma poi il fatto che si riprende nel suo gorgo il destino familiare della Magnani. Abbiamo un ascoltatore, Antonio. Buongiorno Antonio. Buongiorno, volevo ricordare un film molto bello, mi sembra, di Lelouch, che è Bella di giorno. Che non è Lelouch, posso? Sì, prego. È Buñuel. Ah, mi scusi, ha ragione. Che praticamente fa vedere questo, che le prostitute non sono altro in fondo che delle donne normali che per un periodo più o meno lungo della loro vita scelgono di fare un mestiere diciamo che estremamente condannato dalla società, ma che la società poi invece usa senza pietà. Io lo vedo leggermente diverso, il film di Buñuel, sì. È una sorta di sdoppiamento di una donna che ha una vita rispettabile, che lo fa per una sorta di annientamento, non si capisce bene, è un'autodistruzione interiore, non è che la prostituta sia una donna normale, è una donna come tante altre, ma sceglie di fare una professione che è un po' diversa rispetto alla dignità che ogni donna ha nel darsi, nel concedersi a suo piacimento con chiunque voglia, ma non certo diventare oggetto prezzolato del piacere maschile. Siamo in lidi completamente diversi, ma Mamma Roma dice l'istuardo di il reage, c'è un mondo onirico, questa donna borghese che ha anche queste fantasie, queste pulsioni che la portano a trasformare in sogno in realtà e a prostituirsi. Non lo fa certo per denaro, è un triplo salto mortale cerebrale di questa donna, e non è perduta per nulla, anzi è una maniera sua per ritrovarsi in un suo labirinto mentale, una sua ricerca assoluta. Ognuno è libero di fare ciò che vuole, ma non la accomunerei con Mamma Roma, che è una disgraziata. Si prostituisce per dare dignità e esistenza a suo figlio, che morirà disgraziatamente come un Cristo del Mantegna in galera legato al letto di contenzione. Ehi, tu, Tieni, andiamo a divertirci. Ma cosa segrete lei? Io c'ho casa mia, sa, con l'acqua, la luce, il fil di gas, con tutte le comodità, non mi manca niente. Amanda, ma che c'hai? Mi sposo Daisy! Uno che mi va bene! Ma quale bene? Se non hai nemmanco un mese che lo conosci, ma vuoi capire che t'ha buttato a fiume? E perché mi dovrei sposare? Giulietta Masina nelle notti di Cabiria. Ecco, Fellini tocca in varie maniere, molto presente, la donna perduta in Fellini, tanto che poi fece La città delle donne, che in realtà è l'uomo perduto attraverso le donne, nel più fantastico, meraviglioso, indicibile e desiderabile sogno di annientamento di un essere umano. Approdare nella città delle donne e uscirne divorato come una caduta nella vasca dei piragna. Fellini amava la carnalità, la rotondità dei glutei, dei seni. In questo caso invece si concentra su una prostituta che è Cabiria, nelle notti di Cabiria, molto delicata, molto lunare, leggerissima, tratteggiata a pastello, che subisce l'onta del mondo, la violenza e la ferocia del mondo. Questo è il suo percorso. Giancarlo, buongiorno. Buongiorno. Sono qui al telefono, ho 81 anni, ho vissuto l'epoca delle case di tolleranza. E secondo il mio parere le cose erano molto più ordinate, perché c'era un controllo medico, queste ragazze erano protette perlomeno dalle loro case, lo facevano spontaneamente, e da quando le hanno chiuse tanti anni fa, invece la prostituzione praticamente si è divisa in 3-4 categorie: quelle che lo fanno per necessità, come tante straniere che vengono, non sanno come vivere e cosa. Quella delle ragazzine che lo fanno per hobby, per esperienza, per avere dei soldi in tasca. Quella delle signore che lo fanno per uscire dal loro mondo, forse troppo ristretto, troppo chiuso. Beh, quello lo facevano anche a suoi tempi, immagino, perché non credo che le signore... Penso che anche a suoi tempi le signore che volevano evadere avevano ampio modo, sì, di farlo. Anche allora c'era... Si chiamavano mantenute, si chiamavano modiste, sempre si chiamava in altra maniera. Qui ci sono anche signore di buona famiglia che purtroppo lo fanno proprio come vorrei dire vendetta verso il marito. Ma io dico per fortuna, per chi gli capita vicino, non dico non purtroppo. So. Comunque trovo che tutto sommato quello che hanno creduto di sanare chiudendo le case di tolleranza hanno invece peggiorato la situazione. Ecco, adesso parte questa lettura di tipo tecnico, pratico, sanitario, su cui si potrebbe anche molto dire, però la lascio da parte un attimo. A me piaceva sapere se realmente il clima che certi film portano, di questo senso di complicità quasi familiare che esisteva nel mondo delle donne perdute, realmente così? Era realmente così, ed erano veramente ragazze, perché erano ragazze legate tra di loro, le quali io ne ho conosciuto, ad esempio, io sono di Torino, ho conosciuto una al quale era nato un rapporto di amicizia, e diceva, sarò, quando tornerò nei miei paesi giù nel sud, sarò la moglie più fedele che possa esistere, perché voglio guadagnare un po' di soldi per poter aprire un'attività commerciale. E poi certo che di uomini ne ho avuto abbastanza, non ne vorrò mai più vedere se non mio marito. Quindi proprio come Ado alle sue compagne, era il sogno di fare un piccolo gruzzolo per poi andare a fare un'altra professione. Esatto, esattamente, di fare un piccolo gruzzolo per poter iniziare una vita sana, buona e cose. E trovava alle volte, a parte certo sì, certo no, ma anche delle ragazze intelligenti, veramente preparate, le quali per necessità, poi guardi che parliamo degli anni 50, quindi la situazione dopo la guerra era veramente molto brutta, molto difficile. E lei si ricorda il passaggio dalla Berlino in poi? Sì, le capitava di rincontrare? Il passaggio da Berlino in poi è stato una botta, allora eravamo studenti, logicamente universitari, è stata un po' una sorpresa, una cosa triste, perché era sparito un ambiente dove si andava a festeggiare la ricorrenza della maturità, dove si andava a festeggiare dopo una cena un compleanno di qualcuno, c'erano delle sale più belle, più brutte, ovviamente quelle un po' più belline, avevano dei salottini dove addirittura eravamo 7-8 amici che si stava lì, si chiacchierava, poi chi voleva usufruiva delle offerte della casa. Sì, era una sorta di passatempo per chiudere la serata, questo è stato fedelmente riportato, quindi conferma il fatto che il cinema ci guarda con grande attenzione, tutto ciò che noi pensiamo aver soltanto guardato in realtà era il grande osservatorio su noi stessi. Ringrazio l'ascoltatore Giancarlo che ce l'ha ricordato. Melog 2.0. E allora? Ah, ma cantucciere del panella, e no, e non mi piace de mica così, va mica bene. Namo, su, namo, chi viene a giocare a scacchi in camera mia? Come stai? Oggi non mi va bene, eh? Fiori in fiorello, l'amore è bello, vicino a te. Stamattina c'è voglia di l'amore. Namo, signori, namo, chi sta comodo per primo? E su, andiamo. Eccola qua. Non ho tempo da perdere, però. Voglio tornare subito in camera. Si va? Si va, vieni, andiamo? Sera in pena. Andiamo? Andiamo! Ho bucaiolo, ci si muove? Non sento più. Andiamo? Me ne vado. Vado a letto. Non sento più, eh? Ho tutto un fuoco? Ho tutto un fuoco? 800 24 00 24. Stiamo parlando di donne perdute. Sono tante le sfumature, le accezioni, le possibilità di immaginare ognuno la propria donna perduta, ogni donna di immaginarsi nei momenti di perdizione. Quanto vi siete sentite donne perdute? A volte essere donne perdute non significa necessariamente corrispondere a questa passerella che racchiudeva tutti gli stereotipi, tutti i luoghi comuni, tutti i racconti, tutto il detto e non detto. Questo rapporto con ascoltatore ci ha anche un po' allucinato, del cliente la prostituta, la passerella delle donne che si vendono e gli uomini che a questo mercato si compiacciono di essere loro in quel momento, una volta tanto, pagando i padroni dei sensi di quelle donne. Sansonna, in Roma non poteva mancare questa classica, densa e inequivocabile passerella delle prostitute. Il film del 72 di Fellini e racconta la Roma vista dagli occhi di un provinciale, probabilmente riminese, che arriva a Roma appunto poco prima della guerra, e qui si descrive un bordello di lusso, un posto con arredi Art Nouveau, lampade, e questo rumore che si sente, questo fischio dell'ascensore che porta in camera, questo un rumore meccanico, e questa girandola di prostitute che provengono da ogni parte d'Italia con le loro parlate, con i loro volti bistrati, i loro corpi floridi, si offrono a questi uomini che, nonostante siano lì appunto per la marchetta, sono in palese imbarazzo, in silenzio, no? Sono le donne in questo girare e offrirsi molto assolutamente disinibite, finché non arriva la più bella di tutte, che è la Pompeiana, che è questo viso antico che viene dal Vesuvio, scaturisce dal Vesuvio, ed è bellissima la scena. Dunque, io ricordo che tu spesso citi un rapporto classico che esiste in tutta la commedia italiana, che noi abbiamo anche più volte citato quando parlavamo dei film pecorecci anni 70, Alvaro Vitali, tutte le commedie con la Fenech e via dicendo. C'è sempre questo rapporto fra donne belle, donne imponenti, donne anche di costumi disinibiti, con uomini perennemente assatanati, arrapati, ma il punto di vista estetico, il colpo d'occhio è uomini terribili, uomini orrendi, dei mostri, dei freaks e tutti gli effetti che stanno lì e come piccoli scarafaggi si agitano attorno alla dea, che in fondo non viene nemmeno scalfita lontanamente dal loro schifoso a darsi da fare. Sì, è l'archetipo biblico di Susanna e i Vecchioni. In Roma è un po' disdetto, perché l'alter ego di Fellini, che spesso sarà Mastroianni dopo, qui è un ragazzino bellissimo in realtà, com'era poi Fellini da ragazzo, prima che incontrare la Masini, poi diventare un po' più pingue nel tempo, però da ragazzo era effettivamente di quella bellezza diafana che è quella di Peter Gonzales, il protagonista di Roma. Invece gli altri sono tutti questi professionisti, questi militari, questi generali che stanno in questa casa di tolleranza, molto, molto appunto impettiti e abbrutiti anche dalla vita, insomma. Sto osservando con attenzione e con una certa delusione, ma ognuno poi ha le sue attese poetiche, non è detto che sempre debbano essere soddisfatte da chi ti ascolta. Stamattina il tema della donna perduta era un tema vastissimo. Donna perduta è una sfumatura che va appunto dalle prostitute che stiamo in questo momento ricordando, a un'infinità di supposizioni, di immaginari, di autoconvincimenti, di rimorsi, di caratteri compensatori rispetto a relazioni, a conoscenze, a incontri. E nessuna donna ha mai pensato di nessuna donna questa mattina ha pensato di telefonare per raccontare quante volte si è sentita ingiustamente tacciata, considerata o piacevolmente, al contrario, considerata una donna perduta. Quanto essere donna perduta può rappresentare una vertigine, può rappresentare un'uscita dalla normalità. Invece mi chiamano i classici, rispettabilissimi e onesti puttanieri. Giacomo, buongiorno. Buongiorno, non sono tanto d'accordo su quello che lei afferma, per il semplice fatto che, sì, detto mia esperienza, ci sono donne che lo fanno per piacere loro personale, ci sono donne che purtroppo lo fanno a causa di motivi economici, e ci sono donne, come giustamente lei ha detto, che sono schiavizzate. Questa, ecco, lei cosa fa? Lei qual è la sua professione, Giacomo? La mia professione è camionista. Quindi ha esperienza, diciamo, di donne di strada in questo caso? Cioè, esperienza, conosco diverse e compagnia bella, dai. Stiamo adesso andare a curiosare, diciamo. Questo compagnia bella, dai, c'è una reticenza manzoniana, mi sembra, no? Quelle, sì. Allude a una conoscenza diretta, immagino, no? Sì, vabbè, va per strada, vedrà. Non so adesso come sia articolata lungo le strade. Purtroppo quello che si vede, le donne perdute che si vedono lungo le strade italiane, nei raccordi autostradali, sono della categoria delle schiave, e questa è una cosa tristissima. Non vanno anche oltre le nostre volontà e capacità di descriverle in qualche maniera poeticamente. Lei di quale tipo di donne perdute sta parlando in particolare? Ma non è vero quello che ha detto il signore lì, perché ci sono tantissime che lo fanno per diciamo motivi economici, certo, e si sono certo buttate su quel degrado, diciamo, per motivi economici. Ci sono tante che lo fanno in appartamento per interessi personali, e altri lo fanno per piacere, che addirittura non vogliono neanche essere pagate. Non so se rendo l'idea. Sì, sì. Ma è chiaro, c'è anche quelle purtroppo che vengono schiavizzate, lì giustamente, come avete detto voi altri. Ritorniamo, è chiara la sua testimonianza, e diciamo è una casella in più, visto che noi stiamo tracciando uno spaccato e una possibilità di dare varie accezioni al termine donna perduta. Il nostro ascoltatore camionista ci racconta quello che vede lui lungo la strada, quella che è la sua classificazione. Ma volendo fare un passo indietro e tornando appunto alla lettura del cinema, della commedia italiana delle donne perdute, c'è un film in particolare che mostra un'altra via di possibile redenzione, tenendo fra virgolette il termine redenzione, perché non so quanto ci si possa sentire redente andando a cercare per corrispondenza un povero disgraziato in Australia che cerca disperatamente una compagna. Carmela, perché piangi? Perché se torno in Italia finisco sul marciapiede un'altra volta. Che vuol dire marciapiede? Vuol dire che trova uno che mi rompe la faccia e mi ributta sul marciapiede a battere come prima. Ma che sei, una mignotta? Ma allora, brutta migliacca, sei tu che mi hai ingannato! Ma se volevo cacciarmi da quella vita, qualcuno ci doveva dare la fregatura! E proprio a me la dovevi dare! 11 anni di lavoro e sacrificio! Lo santo Antonio benedetto! Gli dare di Yawaki! E the sacrifice! No beer, no coffee, no cigarettes! 11 anni! Mi sono fumato le radici per mettere su una casa! E poi mi dice che è una mignotta che batteva il marciapiede! Brutto disgraziato! Io che rischiai la pelle per scappare dal mio protettore, per venire a sposare Giuseppe Sansonna, l'immigrato australiano che voleva una bella moglie illibata, possibilmente tutta la vita fumato radici, gli viene una prostituta che cercava una possibilità di uscire dal giro. Il film è bello, onesto, emigrato Australia, sposerebbe con paesana illibata, che è appunto di Zampa, un film strepitoso con un grandissimo Sordi che alla Stan Laurel, con questo doppio taglio, i capelli così, è uno dei mostri più terrificanti della sua carriera, diciamo quello. E questo operaio che si finge capostazione per attirare questa, e poi manda una foto in cui mette la freccia sul suo amico, su Garrone, l'aitante Garrone, un po' alla Calboni, un personaggio baffuto e aitante, per attirare questa donna che considera illibata, invece è la prostituta calabrese con tanto di coltello a saramandico in dotazione da cliché calabrese, che è la strepitosa cardinale, che arriva in Australia. E si riscopre nella sua essere disgraziato, infame, pieno di problemi, anche moralista, infame. Sì. No? Bella, bellissima, non accetta il fatto che avesse, non è capace a mettere una pietra sopra al passato la donna, anche se lontanissima, lui non darebbe nessun problema, e ritorna alla sua disperata solitudine, infame solitudine. C'è il retaggio, poi il finale è aperto, ambiguo, sottile, perché Zampa è un regista sottile, e quindi non si sa se poi si fermeranno in questo paesino australiano e continueranno una vita insieme, però comunque c'è una mestizia di fondo, c'è lui roso dalla malaria che ha preso lavorando come operaio in Australia, c'è questo locale degli emigranti in cui tutti cercano una donna. Sono 50 uomini e due donne orribili, ognuno chiede balla, cioè non ballo, non ballo, finché si balla con donne con dei baffi, per far capire che in realtà era un fiore questa donna, gli era capitata una fortuna unica, ma non riesce a passare sopra al fatto che abbia avuto un passato turbolento. Questo cinema che metteva anche nelle commedie il dito nella piaga è molto interessante, perché coglieva questi spaccati anche tragici nella commedia, riuscendo anche attraverso dei cliché forzati, per carità, riusciva a lasciare emergere delle dinamiche, delle situazioni, delle disperazioni di fondo. Molto... Secondo me il tema più importante di questo film è l'incapacità maschile di essere generosi o di prendere una donna per quello che è, l'istante che ti si presenta e ti si concede, ti apre uno spiraglio di luce, di poesia, è una vita tristissima, ti lasci bloccare dal fatto che è stata anche con altro, è stata prostituta, una cosa orribile. La capacità invece grandiosa della donna di cambiare anche in rotazione d'aspetti, la prospettiva sulla vita, che Pietrangeli in questo è sublime, nel già citato Adore Compagne, però anche in questo film. Beh, l'aspetto emerge. Volubile, l'aspetto mutevole delle donne, che è ciò che più spaventa gli uomini, che atterrisce gli uomini, perché ne perdono il possesso, in realtà è il loro fascino maggiore, questo stare sempre sul filo e su una corda tesa. 800240024, mi scrive Fabrizio Intonti, mica solo i camionisti sono puttanieri, è vero, sono anche altre persone. Melog 2.0. Sono tutte signore dell'alta aristocrazia borghese. Ah. C'è pure qualche grande nome. No, non li conosco. Però l'incognito, l'incognito è la trovata del locale. Qui non ci sono nomi, solo i numeri di telefono. Ah, ha capito? Ci si sceglie. Un drink, signori. Volete bere? Sì! Beh, noi abbiamo portato la Brunella Ballor. Le faccio io il numero. Pronto? Pronto? Chi parla? Sono Olga, tesoro. Non è Casacometti? Oh, mi scusi. Ho sbagliato il numero. Adesso tocca a lei, adesso. Ha sbagliato? Sì. Adesso. Adesso faccio. Mi hai chiamato, tesoro? Come? Mi sono accordato per 50.000 lire a ragazze. Un affare, no? Vogliono dei soldi. Ma perché? Quando abbiamo ancora in cassa? Ma con le 8.000 lire della Ginnel Filini abbiamo 52.000 lire. Per bacco, accidenti, bastano solo per la mia. E beh, dammele, va, perché la mia le vuole anticipate. Scusate voi, sono due bidocchiosi morti di fame. Oh, vieni, andiamo, via. Sì. Tassì? Come si fa ad avere un tassì qui? Tassì? Questa volta ne fece chiamare 9. La botta di vita impiegatizia di Fantozzi, o la fare una serata brava, in realtà viene portato in un nightclub dove ci sono entrenese che si prostituiscono i carboni, e l'unico che con i magri risparmi sudati dei suoi colleghi concluderà in gloria la serata. Il night ippopotamo, il tempio della trasgressione d'accatto della piccola borghesia, questo night tremendo con questi telefoni da film di fantascienza con luci stroboscopiche, suoni psichedelici. Fantozzi che... quando chiama al tavolino delle sue donne dice Casa Poletti, sì. Si vergogna perfino di... Fa una telefonata anonima De Visu con la prostituta che ha nel tavolo a fianco, no? Quindi c'è tutta la disperazione, portano da bere da casa, Filini poi spegnerà la cena flambé con l'estintore, Filini, insomma questo è uno dei pezzi più alti forse di Fantozzi, di tanto cinema italiano. Ecco, l'impossibilità di entrare in quel sogno posticcio, perché secondo me è posticcio, io non trovo nessuna poesia, nessun tipo di romanticismo nell'ambiente da casino, però tanto questa lettura è comunque bene o male Fellini è riuscito in qualche maniera a rabberciare, a rendere plausibile, dando onore a una sua certa classe anagrafica, ma quando viene riportato nel grigiore impiegatizio diventa veramente un tracollo, è il suo lato più schifoso. Sì, invece tornando al lato quello più poetico, forse Buñuel, Dalì, Carmelo Bene ne parlavano dei bordelli come posti in cui andavano a studiare, a pensare i film, come se fossero una sorta di sfondo il passaggio delle donne perdute. Beh, sai, si sentivano in qualche maniera sollecitati dai passaggi feromonici degli impiegati che andavano lì. Io non ci trovo nessuna poesia nella prostituzione organizzata, sinceramente. Nelle donne perdute tanta poesia, ma questa mattina... purtroppo è una mattina in quello in cui è difficile farsi capire. Mi scrive Emanuele, dice: caro Gianluca, su Facebook, forse le donne non ti chiamano perché dal punto di vista di noi donne essere perdute non è una fascinazione del proprio essere, forse piuttosto è comunque un dolore. Ma essere donne perdute non significa, secondo me, sentirsi donne perdute, che può essere un fuggevole transeunte momento di una propria serata, di un'esistenza, non significa essere prostitute, significa per un momento abbandonare il freno dello status, di quello che si è, di quello che si rappresenta, consapevolmente, ma anche in totale non necessità di procedere poi con intime d'azioni. Il momento è la frenesia di sentirsi perdute, che è una delle tante possibilità, non è detto che sia l'unica. Maria, Buongiorno. Salve, buongiorno. La la la la. Già di prima mattina, Maria? Già di prima mattina? No, io col vento, io col vento. Ah no, pensavo che sarei già fatta mezza bottiglia. Che carino. È via col vento, è quando Red Butler litiga, diciamo, con la moglie e torna da quella sorta di sua amica nella casa, e questa lo consiglia per il meglio, perché appunto sì, era una che aveva il casino, però era anche di quelle di cuore, perché questo sono anche quelle poveracce. Ma perché dice quelle poveracce? Ecco, c'è sempre lei che sicuramente non no, è una... nel senso che noi le strapazziamo, le vediamo male. Io poi uso questo termine un po' per tutte le persone, pure quando lei l'altro giorno si è definito un piccolo uomo mago di Oz, mi ha dato tanto fastidio, ho detto ma perché si deve trattare così, poverino? Cioè è una mia modo di un'interfaccia. Ma quella è una paraculata, così lei si commuove e dice ma no, non è così. Sì, sì, lo so. Però ecco. Senta, adesso mi fermo un attimo i ricordi cinematografici e mi parla, perché visto è l'unica donna che sono riuscito a brancare questa mattina e speravo in un folto pubblico, mi dica, ma è esattamente così tragico una donna sentirsi per un istante, per un giorno, per una serata, per un pomeriggio, per 10 minuti dal fruttivendolo donna perduta? Non ho capito. È così tragico per una donna sentirsi in un momento qualsiasi della sua vita donna perduta? Lei si è mai sentita una donna perduta? No, va bene, e basta. No. Le è passata l'allegria, le è passata la sbornia improvvisamente. Ah no, beh. No, anche perché tutto sommato. Mai in un momento della sua vita ha detto: ah, oggi ho fatto qualcosa, mi sento una donna perduta. Con un po' di nostalgia, mica dico con rammarico. Cioè, senza vedo indietro, ho dei rimorsi e dei rammarici. Per le rose che non colse anche lei, come Gozzani. Però sono un'altra cosa rispetto a quello che dice lei. No, no, sono ancora abbastanza infantile, non lo so. Vabbè, è una brava ragazza, si consola come può. Grazie Maria, buongiorno. Leggo l'SMS di Valentina, che non può telefonare perché sta in viaggio. Dice: dando la vita, deve la vita a una donna perduta. È nata nel 56, la sua mamma non aveva latte, aveva necessità di latte di donna. Finché mio papà non ha trovato una bale, andava a prendere il latte dalle prostitute. Ecco, questa sorta di mungitura della prostituta da parte del padre, vorrei vederla. Il papà andava con il secchiellino del latte al casino e mungeva le prostitute per dare il latte a Valentina, perché la moglie non aveva latte. È una storia bellissima. Certo, oddio, la vita mia è stata sempre un po' curiosa, diversa da quella degli altri. Ma è arrivato il momento di cambiarsi. È proprio arrivato. La vita bisogna viverla tutta, ora per ora, pure di mattina. Un po' di più in mezzo. Sansonna, questa è Anna Magnani, il suo ultimo film, il 71, l'automobile. Di Mamma Roma si è evoluta negli anni 70, mette a frutto i suoi risparmi per farsi l'automobile. Per comprarsi un 850 Spider che coronerà certe sue frustrazioni, certe aspettative deluse dalla vita. E qui c'è un monologo interiore della Magnani che vaga in una Roma che non riconosce più, una via Veneto di cui era la regina nel film e che non riconosce, caotica, chiassosa, piena di sirene, di ambulanze. Ecco, fermiamoci un attimo sull'850 Spider, una favolosa macchina, trasformava l'utilitaria diventata 3 volumi, quindi l'utilitaria che già cominciava a somigliare a una macchina seria, che era l'850, macchina che ha meccanizzato e motorizzato Italia, nella versione Spider diventava la fuori serie. Era il duetto, era la Giulietta Sprint a portata del portafoglio di ogni impiegato. Ma chiudiamo con l'apoteosi, la donna perduta, colei che sulle terrazze di Roma riesce addirittura quasi a sedurre un seminarista e che in realtà è il sogno erotico e di perdizione più ripercorso, più celebrato da tutti gli italiani. Perché la domenica mi lasci sempre sola per andare a vedere la partita di pallone? Perché? Me ne frego io della partita! Abbassata, apparella. Io non mi muovo più di qui. La botta di vita metodica e puntuale di Mastroianni a Roma era andare a frequentare la Loren, sì, meravigliosa, sì. Loren, il suo indimenticabile spogliarello, sì. Si aprivano le porte del paradiso in quell'abbaino sulle terrazze di Roma, per lui che era saltuario cliente di questa donna con cui aveva rapporti quasi affettivi, simulando, sì, che in realtà era un amore, quando in realtà era un rapporto prezzolato. Sì. Il film è Ieri, Oggi e Domani, poi ripreso da Robert Altman, questo spogliarello meraviglioso della Loren, sempre con Mastroianni in Prêt-à-porter di Altman. qui Mastroianni poi si addormenterà invece nel secondo film, nel seguito, non proverà più quelle emozioni del primo film. Ringrazio Valerio Rocchetti, ringrazio Fabrizio Intonti, Giuseppe Sansonna che in questa mattina mi ha lungamente accompagnato in una trasmissione che vuole essere la nostalgia per tutte le donne perdute, ma in realtà è stata la perdizione totale di tutte le donne che non hanno telefonato. A domani. Lasciate un messaggio alla segreteria telefonica di Melog. 828 1111. Melog va in replica questa sera alle 22:00.